notte disteso sul selciato e sotto il suo corpo una macchia rossa e due sottili rivoli di vita che scendevano lenti verso una fogna. Gli si era avvicinato gridandogli bastardo quell'uomo, uomo bianco, vomitando luride parole ed una fiamma senza una ragione nel suo corpo di negro si era piantata. Aveva dentro agli occhi un cielo senza stelle, un pozzo senza fondo e infinite macchie di olio giallo. Fiumi di lava viola nelle tempie e sentiva suonare 100 campane. Perché si domandava perché così la morte, portata da una mano, caricata da una molla d'odio. Una domanda senza una risposta, soffocata dal tetro, urlo del vento. Ed ora nella notte si innalza dal selciato un grido sovrumano ripetuto da un eco senza fine e la paura si allarga nei miei occhi, occhi che cercano ancora una speranza.